Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Mister Bob-san, anata wa shosai ni yukkuri to sawatte imasu. Soshite tebulu no ue ni wa Suntory whisky ga arimasu. Tempo di Suntory. Vuole che si giri e guardi verso l'obiettivo. Ok? Ha detto solo questo? Sì, si giri verso l'obiettivo. Sì, vuole che mi giri dalla parte destra o da quella sinistra? あの、彼の方はもう準備ができてます。それで、あの、スタートがかかった時に、あの、カメラの方に振り向く時に左から振り向けばいいのか右から振り向けばいいのか、その辺のところはいかがなさいましょうかっていうことなんですけれども。どちらでいいんだよ、もう。関係ないんだから、そんなもの。時間がないんだよ。ボブさん。え?だからもう早く Con intensità, ok? Tutto qui, sì, insomma, sembrava avesse detto un sacco di altre cose. あなたの言ってることはウイスキーのことだけじゃないんだから。わかる?古い友達に会うように、優しく、ジェントリーにね、そして心から湧き上がってくる。テンション、これ忘れちゃダメだよ。 Come un vecchio amico e verso l'obiettivo. D'accordo. わかった? Anata, whisky o aistemasu. Tempo di Suntory. Ok? Ok. Un consumato attore americano, vestito di tutto punto e adagiato su una poltrona di pelle scura, recita quasi con rassegnazione le poche battute che occorrono a reclamizzare una marca di whisky giapponese. È difficile per lui capire cosa voglia di preciso il regista dello spot pubblicitario. I due parlano lingue completamente diverse e l'interprete sembra voler nascondere con premura tipicamente nipponica l'evidente nervosismo del regista. È la riproduzione di un set allestito su un altro set, quello di Lost in Translation, L'amore tradotto, secondo film della talentuosa Sofia, figlia del celebre Francis Ford Coppola. Un film che parla di spaesamento, di solitudine, di incontro, della difficoltà di comprendere e farsi comprendere in mancanza di una adeguata traduzione di sentimenti ed emozioni, ma anche di semplici parole. Ciò che finisce perduto in una traduzione inadeguata o scadente ha un valore pressoché incalcolabile. Per uno scrittore, un artista che fa del mestiere di cesellare con le parole la propria passione e fonte di sostentamento, non c'è nulla di più importante di una buona traduzione per sperare di venir compreso e avere fortuna al di fuori dei confini del proprio paese d'origine. Ed è proprio attorno all'idea di arte e scrittura ed arte della traduzione che ruotano le esistenze dei protagonisti della nostra storia. Il primo è americano, è la lingua in cui si esprime l'inglese. Il suo nome è Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Sapete perché ho tradotto Poe con così tanta pazienza? Perché mi assomigliava. La prima volta che ho aperto un suo libro ho visto, con spavento e meraviglia, non solo dei soggetti che avevo io stesso sognato, ma delle frasi pensate da me e scritte da lui 20 anni prima. L'uomo che ha appena pronunciato queste frasi così piene di ammirazione e vicinanza letteraria è un famoso, famosissimo poeta. È nato, ha vissuto ed è morto a Parigi. La sua lingua madre, ça va sans dire, è il francese. Ma trattasi di uomo di cultura, e gli uomini di cultura in virtù dei propri studi spesso hanno familiarità con idiomi differenti. La dimestichezza di questo celebre poeta con l'inglese ha fatto sì che incontrasse sul suo cammino artistico gli scritti di Edgar Allan Poe e decidesse, un po' per soddisfare un piacere personale e un po' perché spinto da una sorta di imperativo morale, di tradurli in lingua francese. Potremmo addirittura arrischiarci ad affermare con buona approssimazione che se non fosse stato per la traduzione di questo giovane d'Oltralpe, non saremmo mai venuti a conoscenza dell'arte di un giovane narratore d'oltreoceano. Il traduttore di cui stiamo parlando risponde al nome di Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Poe e Baudelaire, americano uno e francese l'altro, uno tradotto e l'altro traduttore. Li separano una manciata d'anni e un oceano intero, l'Atlantico. Se è vero che il mare non li farà mai incontrare fisicamente, la pagina scritta invece saprà unirli più di qualunque abbraccio. Se è vero che tradurre è un po' tradire, traghettando in una lingua estranea parole ed espressioni che in origine appartengono a un'altra, è altrettanto vero che la traduzione è l'unico veicolo possibile per promuovere la diffusione di un'opera in paesi diversi da quello in cui è nata. L'americano Poe, a metà dell'Ottocento, ha bisogno che il francese Baudelaire si innamori del suo modo di scrivere e in virtù di questo amore decide ad un tratto di far rivivere le parole di Poe nella propria lingua. Come poeta, Edgar Allan Poe è un caso a sé. Egli rappresenta quasi da solo l'intero movimento romantico d'oltreoceano. È il primo americano che abbia saputo fare, per così dire, del suo stile uno strumento. La sua poesia, profonda, malinconica e non di meno cesellata, pura, corretta e lucente come un gioiello di cristallo. Un gioiello prezioso, un talento puro e raro che, proprio come il cristallo, la cui complessa formazione dipende da innumerevoli fattori quali la temperatura e la pressione, si è forgiato in un ambiente esterno spesso ostile, addirittura minaccioso. Un ambiente che ha certamente contribuito alla creazione della peculiarità del suo stile. Vi sono destini fatali. Esistono nella letteratura d'ogni paese uomini che recano la parola disdetta, vergata in caratteri arcani nelle pieghe sinuose della fronte. Quale dolorosa tragedia la vita di Poe. Charles Baudelaire non ha dubbi. Il talento di Poe si è forgiato fra le fiamme del suo inferno personale. Strano a dirsi, dal momento che in partenza tutto per lui sembra porsi nel migliore dei modi. Edgar, infatti, nasce a Boston nel 1809 da una famiglia più che benestante. Il nonno materno era stato generale nella guerra di indipendenza americana e aveva combattuto al fianco del celebre Lafayette. Il bisnonno aveva sposato una delle figlie dell'ammiraglio londinese McBride, uno degli uomini più in vista dell'intera società anglosassone. Il padre riceve un'educazione signorile, ma ciò non lo scampa dalla violenta passione per Elizabeth, attrice fascinosa e spiantata con la quale organizza una fuga lampo e un matrimonio altrettanto repentino. E ancora Baudelaire a parlarcene. Indy, per mischiarsi più intimamente al destino della consorte, il padre di Poe finì per calcare anch'egli le scene, col risultato che, sprovvisti l'uno e l'altra di genio teatrale, si condussero a vivere in modo triste, precario. La travolgente storia d'amore dei coniugi Poe è costretta a fare i conti con la realtà. Edgar viene alla luce quando la coppia vive già in condizioni di indigenza. Nel giro di un anno o poco più, entrambi i genitori muoiono per le conseguenze della fame, degli stenti e della miseria. Inevitabilmente i due abbandonano ai capricci della sorte un povero bambino indifeso, forzato dagli eventi e da ragioni assai più grandi di lui a vedersela con l'assenza di cibo e di un tetto sotto il quale ripararsi. La solitudine avviluppa Edgar come un manto, eppure dalla sua il piccolo ha fattezze fisiche stupende, occhi grigio-celesti penetranti, una fronte spaziosa, un corpo proporzionato e persino una voce melodiosa. Possiede inoltre un'intelligenza viva e un'innata capacità a conquistare le persone, in primis il ricco mercante John Allan, che decide, commosso e conquistato da Edgar, di prendersene cura. Il giovane Poe, nato fra le macerie delle sfortunate carriere dei genitori, cresce invece fra gli agi del fortunato mercante Allan, al quale ruba il cognome annettendolo al proprio. Il ragazzo riceve un'educazione di tutto rispetto. E nel 1816, a seguito di un viaggio coi genitori adottivi in Gran Bretagna, ha la fortuna di accedere al prestigioso collegio londinese di Stoke Newington, dove trascorre 5 anni capitali per la sua formazione. La parola questa volta la cediamo proprio a Poe in persona. I miei più antichi ricordi di scuola evocano una vasta, erratica dimora elisabettiana. Il profilo nebbioso di un villaggio inglese, alberi in gran numero, giganteschi, contorti, case di vecchiezza estrema. In questo istante avverto nella fantasia la fresca consolazione di viali ombrosi. Respiro la fragranza della macchia innumerevole e mi turba una indefinibile letizia quando, allo scadere dell'ora, la nota cava e fonda della campana, con subito e fondo clamore, intacca l'immota atmosfera crepuscolare in cui giace, immerso, assopito, lo squisito campanile gotico. Questo brano, tratto dal racconto intitolato William Wilson, ha fortissimi echi autobiografici. Il freddo paesaggio inglese, elegante e vagamente spettrale, i lunghi filari di alberi piegati dalle gelide correnti del nord, gli edifici maestosi e al contempo lugubri, si incastonano immediatamente in quello che ben presto sarà l'immaginario di Poe scrittore. Un paesaggio interiore gotico e solitario, battuto dai venti dei dolori trascorsi e di quelli futuri, forgiato dall'assenza dei veri genitori, dagli stenti della prima infanzia e dal fardello di un'intelligenza e una sensibilità fuori dal comune. Nel 1822 Edgar torna a Richmond, Virginia, città in cui vivono gli Allan. e prosegue gli studi sotto la direzione dei migliori maestri. È un giovanotto notevole sotto svariati punti di vista, eccelle negli sport e alle seduzioni di un aspetto affascinante, somma un'ammirabile memoria poetica unita alla precoce facoltà di improvvisare racconti. Il suo avrebbe tutte le carte in regola per rivelarsi un futuro fulgido, almeno finché su di esso non si spalancano le porte di un doloroso abisso personale. Poe si iscrive all'Università della Virginia, istituto dove negli anni 20 dell'Ottocento regna la massima dissipazione. Edgar, abituato a eccellere pressoché in qualunque disciplina, non manca di dare il meglio anche in questa. E si distingue fra i confratelli per la sua sete apparentemente inesauribile di piaceri. L'abuso di alcol e la febbre per il gioco d'azzardo lo portano a essere cacciato dall'Ateneo. Edgar accumula debiti durante furibonde partite a carte in cui finisce immancabilmente a fare la parte del pollo da spennare, non fosse altro perché si presenta al tavolo da gioco sempre ubriaco fradicio. Il padre adottivo si rifiuta di prestargli del denaro per saldare uno dei suoi misfatti. Edgar si infuria e tronca i rapporti con lui. Sull'onda della rabbia e della disperazione parte per Boston, dove solo e senza un soldo si barcamena facendo lavori saltuari. Un po' fa l'impiegato e un po' scrive per qualche quotidiano locale, esercitando il suo talento con le parole. È un periodo duro, segnato dalla dipendenza dall'alcol che lo porta a vivere in una dimensione sospesa tra la lucidità e la follia, tra la realtà e il sogno. Si inventa perfino di essere partito per l'Europa in conseguenza del litigio con il padre. Ci cascano svariati suoi biografi, uno su tutti, Charles Baudelaire. Sono portato a credere che gli Stati Uniti non siano stati per Poe che una vasta prigione e che egli per tutta la vita e in tutti i suoi modi, anche i più sinistri, si sia adoperato di fuggirne l'integrata influenza. Il rapporto conflittuale col proprio paese è un elemento che non può non far presa su un poeta reietto e bistrattato come Baudelaire, e proprio come accadrà per il poeta francese, Poe annega i suoi dispiaceri nel vino. Si iscrive all'Accademia Militare di West Point, dalla quale è puntualmente cacciato per una serie di infrazioni disciplinari, ma poco importa. Nei momenti di lucidità, così come in quelli di oblio, Edgar sa che il suo futuro è quello di uno scrittore. Già durante il lasso di tempo dell'impegno militare, Poe ha avuto modo di pubblicare due raccolte di poesie, ma non basta. Vuole fare della scrittura la sua unica attività. Un critico una volta ha affermato, non senza spudoratezza, che nonostante la bella qualità del genio di Poe, meglio sarebbe stato per lui possedere un semplice ingegno, poiché l'ingegno si traduce in moneta più facilmente del genio. In quegli anni la sua capacità di scrittore è già matura, così come altissima è la sua sensibilità di critico letterario. Lavora nella redazione del mensile Southern Literary Messenger e inizia a pubblicare racconti su svariate riviste. La sua attività di scrittore procede di pari passo con quella giornalistica. Si muove instancabile tra Baltimora, Richmond, New York e Filadelfia, lavorando alacremente e ubriacandosi con altrettanta convinzione, costantemente vessato dalla precarietà delle proprie condizioni economiche e di salute. Nel 1840 esce la sua prima raccolta di racconti, Tales of the Grotesque and Arabesque. Il 43 è l'anno dello Scarabeo d'Oro, cui seguono a distanza di un paio d'anni Il Corvo ed altre poesie. In America è ormai famoso, ma la celebrità si accompagna a feroci critiche e in ogni caso non riesce a sottrarlo alle proprie debolezze. Poe scrive e beve in continuazione. La sua sofferenza è acuita prima dalla malattia e poi dalla morte della moglie Virginia. Dal momento della sua scomparsa, gli incubi gli offuscano irrimediabilmente la vista come una sorta di perversa, selvaggia cataratta. È Charles Baudelaire a descriverci questi momenti. Venne un giorno in cui tutto ciò che era umano lo disgustò e soltanto la metafisica ebbe un senso per lui, abbagliando con le luci dell'intelligenza il suo giovane e ancora amorfo paese, scandalizzando col suo modo di vivere uomini che gli si credevano uguali. Diventò via via uno dei più infelici scrittori che mai siano stati. I rancori crebbero contro di lui, intorno gli si fece il deserto. A Parigi o in Germania non avrebbe fatto fatica a trovare amici che lo capissero, che lo consolassero. In America gli toccò sudarsi il pane giorno per giorno. Non occorre di più per spiegare l'ubriachezza e il bisogno di cambiare continuamente città. Egli attraversava la vita come un Sahara e vi si spostava come un beduino. Poe si sposta con ansia febbrile, muovendosi con la stessa voracità con cui scrive e si ubriaca, puntuale, ogni sera, nelle taverne. La mente sarà anche offuscata dai fumi dell'alcol, ma il suo sguardo d'artista è insospettabilmente lucido, crudo, ferale, ferino. uno sguardo che non può lasciare indifferente un giovane aspirante poeta francese dal cuore sofferente e attratto dall'oblio. Parigi, 1846. Il 25enne Charles Baudelaire, seduto nello studio del suo appartamento in Quai de Béthune, sull'Île Saint-Louis, sfoglia con voluttà un volume dalla copertina scura. Lo ha comprato in città da un libraio straniero, uno di quelli che amano il proprio mestiere, che si divertono a collezionare perle esotiche, se per esotico si può intendere qualunque testo che non provenga dalla Francia. Il volume è stato pubblicato da Wiley & Putnam, neonata casa editrice americana con sede a New York City. Il frontespizio reca una scritta che recita «Edgar Allan Poe's Tales». Il giovane Baudelaire è affascinato dall'atmosfera gotica che si respira fin dalle prime pagine, un'allure avvolgente e travolgente, un fascino che finirà ben presto con l'avvilupparlo sia sul fronte artistico che su quello umano. Destini incrociati è a Parigi, nello studio di Charles Baudelaire, giovane poeta alle prime armi, intento a sfogliare con cura e godimento le pagine dell'edizione newyorkese dei racconti di Edgar Allan Poe. Poe non è un autore famoso in Europa. Lo è in America, la sua terra d'origine, l'amata e odiata culla della modernità, così come la conosciamo. Una terra piena di opportunità, ma al contempo crudele, ottusa, vanitosa della sua potenza industriale, gelosa di quel vecchio continente che in un modo o nell'altro l'ha pur sempre partorita. Gli Stati Uniti, così fieri della loro giovane grandezza, così ingenuamente fiduciosi nella forza creatrice del lavoro, provano una sorta di commiserazione per chiunque perde il proprio tempo in vaneggiamenti fantastici. Fare della scrittura la propria ragione di vita? Una follia. Fare di una scrittura gotica e sofferta la propria ragione di vita? Beh, peggio di così. Voi che leggete siete ancora tra i viventi, ma io che scrivo sarò già da un pezzo nella regione delle ombre. Perché in verità strane cose accadranno, arcane cose saranno rivelate, e molti secoli trascorreranno prima che queste memorie siano viste dagli uomini. E quando le avranno viste, alcuni non vi crederanno, altri ne dubiteranno, ma vi sarà pur qualcuno che troverà di che meditare sui caratteri che io incido qui, con uno stilo di ferro. Queste parole di Edgar Allan Poe, tratte dal racconto intitolato L'ombra, sembrano addirittura profetiche. Esiste davvero qualcuno dall'altra parte dell'Oceano Atlantico che sia in grado e ben contento di meditare sulle parole di un talentuoso, celebre, eppure bistrattato scrittore americano? Uno scrittore che a sentire certi suoi connazionali avrebbe fatto meglio a usare quel suo stile meravigliosamente puro per scrivere manualetti di economia domestica o di buone maniere, altro che racconti del terrore. Charles Baudelaire invece la pensa in un altro modo. Sulla sua giovane mente fervida, quelle righe spesso tetre, macabre e piene di spavento fanno più presa di qualunque raccomandazione. Alla luce solitaria di una lampada su un tavolaccio ingombro di fogli già scritti, Baudelaire sta chino e rimugina sulle innumerevoli e meravigliose affinità che lo legano a un poeta lontano. Quando per decreto delle forze supreme viene a questo mondo di noia il poeta, la madre piena di spavento con bestemmia alza i pugni verso il Signore che ne ha compassione. Ah, meglio partorire un grumo di vipere piuttosto che dar la vita a questo scherzo di natura. E maledice l'effimera notte di gioia, quando il suo ventre ha concepito il suo castigo. In queste stesse parole di Baudelaire, tratte dalla celeberrima raccolta dei Le Fleurs du Mal, si legge tutto il dramma del rapporto tribolato del poeta coi genitori. Il piccolo Charles nasce nel 1821 a Parigi da una madre giovanissima e da un padre più vecchio di lei di ben 34 anni, che morirà quando Charles ne ha solo 6. La giovane Caroline non ci pensa due volte e convola a seconde nozze con quello che per tutta la vita sarà l'odiatissimo patrigno del fragile Charles. Un tenente colonnello dell'esercito francese tutto d'un pezzo e intriso fino al midollo di perbenismo borghese. Una storia difficile, quella di Baudelaire coi genitori. Una vicenda i cui patimenti ricorderanno da vicino quelli di un altro poeta, Edgar Allan Poe. Baudelaire trascorre l'infanzia e la giovinezza un po' sballottato tra i diversi collegi di Lione e Parigi, dove il patrigno lo iscrive in base all'occorrenza e alla propria destinazione in qualità di membro dell'esercito. Il giovane cresce sostanzialmente solo e sradicato, trovando conforto negli studi nei quali eccelle al di fuori di ogni dubbio. La mia giovinezza non fu che una oscura tempesta, traversata qua e là da rade schiarite. Tuono e pioggia l'hanno tanto devastata che non rimane nel mio giardino altro che qualche fiore vermiglio. Se da una parte ottiene premi per la costanza nello studio, dall'altra si consolida la sua fama di dissoluto e scavezzacollo, rifiutatosi di consegnare a un professore il bigliettino passatogli in classe da un compagno. Viene espulso dal collegio Louis le Grand di Parigi. Pochi mesi dopo supera comunque gli esami finali e si iscrive pro forma alla facoltà di giurisprudenza. Ormai vive fuori casa, dividendosi tra i caffè e una pensioncina in Place de l'Estrapad, dove divide il suo letto con una celebre prostituta del quartiere latino. Apprezza la compagnia femminile almeno quanto apprezza quella dolce e inebriante del vino. Profonde gioie del vino, chi non vi ha conosciute? Chiunque abbia avuto un rimorso da placare, o da evocare un ricordo, un dolore da soffocare, o un castello da innalzare in Spagna, tutti, infine, ti hanno invocato, o misterioso Dio nascosto nelle fibre della vite. Un amore, quello per l'ebbrezza generata dall'alcol, che ancora una volta lo accomuna al suo collega d'oltreoceano, quell'Edgar Allan Poe che in quegli stessi anni bazzica senza sosta le taverne di mezza America. Empi il bicchiere che vuoto, vuota il bicchiere che pieno, non lo lasciar mai vuoto, non lo lasciar mai pieno. La tendenza autodistruttiva li accomuna, ma è ancora presto perché i loro destini, seppur a distanza, si incontrino. Charles Baudelaire nel 1841 viene imbarcato con la forza su una nave che non lo porta affatto a incontrare Poe, bensì dalla parte opposta del globo, destinazione Calcutta. La decisione l'hanno presa, manco a dirlo, la madre e il patrigno, preoccupati per la vita dissoluta di Charles, per le sue frequentazioni poco raccomandabili e convinti che star lontano da Parigi sia la soluzione ai suoi problemi. Oh morte, vecchio capitano, è tempo, leviamo l'ancora. Questa terra ci annoia, morte, salpiamo. Son neri come inchiostro terra e mare, ma i nostri cuori, vedi, sono colmi di luce. Se è vero che la vita come la morte non è che un lungo viaggio, durante il suo, Baudelaire ha modo di scoprire alcune cose. Costretto a vivere per qualche mese in una dimensione lontana dalla propria, riflette sulla pesante decadenza culturale che a suo avviso grava sull'Occidente. Di ritorno a Parigi, l'ormai maggiorenne Charles entra in possesso della cospicua eredità paterna che gli permette di vivere per qualche tempo in grande libertà. Si trasferisce nella casa di Quai de la Béthune. Frequenta assiduamente caffè e club di fumatori di hashish, si indebita e dilapida nel giro di un paio d'anni l'intero patrimonio. I genitori si rivolgono al tribunale per interdirlo e ci riescono. Anche Baudelaire, proprio come Poe, vive una brusca rottura con la famiglia a causa del suo stile di vita dissoluto. Ed è proprio in quel periodo, nella seconda metà degli anni 40, che Edgar Allan Poe fa capolino nelle letture di Baudelaire attraverso un libro importato direttamente dall'America. Charles sente l'autore statunitense particolarmente vicino alla sua sensibilità. Ne ripercorre la biografia e la trova così maledettamente, disperatamente affine alla propria vicenda personale. I guai con la famiglia, l'irresistibile attrazione verso l'oblio, una sofferenza oscura e limacciosa, pesante, come le nere ali di un corvo. Quindi io spalancai l'imposta e con molta civetteria, agitando le ali, si avanzò un maestoso corvo dei santi giorni d'altri tempi. Egli non fece la menoma riverenza, non esitò, né ristette un istante, ma con aria di lord o di lady si appollaiò sulla porta della mia camera, s'appollaiò e si installò. E nulla più. La poesia di Poe, The Raven, narra del corvo che in una notte di tempesta e di pioggia si affaccia alla porta e all'anima di un uomo, svegliando un intreccio di tristi pensieri sepolti. Una donna morta, aspirazioni tradite, desideri delusi, un'intera esistenza spezzata, un fiume di memorie che dilaga nella notte gelida e desolata. Il tono è grave e sovrannaturale. I versi gocciano l'uno dopo l'altro come lacrime monotone. Baudelaire saprà trarre da queste immagini uno spunto personalissimo, capace di caratterizzare una delle liriche più celebri delle Fleurs du Mal. Odio i testamenti come odio i sepolcri. Pur di non mendicare dalla gente una lacrima, inviterei da vivo tutti i corvi sulla mia immonda carcassa a un banchetto cruento. Baudelaire, affascinato dall'immaginario umano e letterario di Poe, non si limita a trarne linfa per la propria vena poetica. Addentrandosi in quei testi gotici ed affrontando lo scoglio di una lingua non sua, comprende la necessità di rendere Poe comprensibile a tutti. Tutti devono poter godere di quelle pagine meravigliose, di quelle parole che lui ama con tutto se stesso. Diventerà il suo traduttore per eccellenza. Oggi si incrociano i destini di Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire. Due artisti distanti e pur vicini, divisi da qualche anno e da un oceano, eppure uniti dalle sofferenze personali e dalla spiccata sensibilità poetica. Mi hanno chiamato folle, ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell'intelletto, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo, non nasca da una malattia della mente, da stati di esaltazione della mente a spese dell'intelletto in generale. Può darsi che Poe a suo modo sia folle, ma Baudelaire in quella follia riconosce tutte le qualità del genio. Il poeta francese scopre il collega americano attraverso la lettura, ne assimila diversi tratti caratteristici e decide di dedicarsi alla traduzione della sua opera. Forse nel periodo compreso fra il 1847 e il 49, anno della morte di Poe, ormai caduto in disgrazia a causa dei suoi vizi, i due potrebbero persino essersi scambiati lunghe lettere piene di consigli e parole d'amicizia. Ma dell'eventuale scambio epistolare non è rimasta traccia. Quel che resta, per certo, è il lavoro di traduzione di Baudelaire, ispirato dall'antica etimologia latina del verbo traducere, condurre attraverso. Si tratta per lui di condurre letteralmente un testo da un luogo a un altro, dall'America all'Europa, dal parziale oblio alla riscoperta e a una rinnovata e duratura fama internazionale. I limiti che dividono la vita dalla morte sono, nella migliore delle ipotesi, vaghi e confusi. Chi può dire dove finisca l'una e cominci l'altra? Le parole di Poe tratte dal racconto La sepoltura prematura risuonano addirittura come fossero autobiografiche. La sua morte, per opera del collega francese, non segna semplicemente la fine di una carriera, ma l'inizio di una nuova e più grande fortuna. I confini tra vita e morte sono labili, e Baudelaire fa di tutto per abbatterli. Le traduzioni degli scritti di Poe lo impegnano quotidianamente, gli richiedono grandi sforzi di precisione e di concentrazione. La conoscenza della lingua inglese è una conquista lunga e faticosa, ma sacrosanta e indispensabile. Tutti i racconti di Poe sono, per così dire, autobiografici e rivelano nell'opera l'uomo. Mentre personaggi e incidenti fanno da cornice e tappezzeria nella mostra dei suoi ricordi. Ogni riga di Poe, tradotta da Baudelaire in francese, dischiude al poeta d'Oltralpe l'universo fosco e misterioso in cui si agitano i personaggi e le emozioni dell'americano. Si tratta di qualcosa di più di una semplice storia di traduzioni. Qui si assiste all'incrocio di due destini, di due menti, di due poetiche che hanno modo di fondersi e dare vita al movimento del decadentismo simbolista. Il romanticismo francese già decadente di Baudelaire vede in Poe uno scrittore di eccezionale modernità psicologica e narrativa, il teorico di un'arte in cui l'immaginazione, la composizione, l'ispirazione e la lucidità si compenetrano perfettamente. Se a metà degli anni 40 dell'Ottocento la conoscenza dell'opera di Poe è riservata a una cerchia ristretta, è proprio l'interesse di Baudelaire a segnare il momento di svolta nella fortuna critica e nella diffusione dell'opera dell'americano, non solo in Francia ma in Europa. I pochi timidi traduttori che hanno preceduto Baudelaire nell'impresa non si sono spinti ad amarlo, interiorizzarlo e farlo rivivere al punto da diventare quasi un tutt'uno con esso. L'atmosfera cupa e decadente delle parole e della vita di Poe non può non contagiare quella del suo ami spirituel. Baudelaire, nel corso degli anni, traduce Poe, pubblica Le Fleur du Mal, scrive saggi, collabora con riviste, ama intensamente, si ubriaca disperatamente e litiga furiosamente con la madre, rea di non averlo mai fatto sentire voluto ed accettato. Si rifugia nell'affetto delle amanti, in cerca di quel conforto che nemmeno la poesia riesce a dargli. La pubblicazione de I fiori del male sconcerta il pubblico, suscita grandi discussioni, ma produce un successo che sembra frutto della curiosità morbosa più che di un reale apprezzamento. Le infinite chiacchiere sul testo si rincorrono e il 20 agosto del 1857 autore ed editore vengono processati per pubblicazione oscena, condannati a pene pecuniarie e alla soppressione di 6 poesie. Non è difficile immaginare perché Baudelaire anneghi i dispiaceri nel vino. Il vino e l'uomo mi fanno pensare a due lottatori tra loro amici, che si combattono senza tregua e continuamente rifanno la pace. Il vinto abbraccia sempre il vincitore. Più che vincitore, però, Baudelaire sembra un eterno sconfitto. La sua salute si fa via via più cagionevole. Il rapporto con la madre sembra irrecuperabile. Muore nell'estate del 1867. Le sue opere diventeranno di dominio pubblico solo 50 anni più tardi e verranno ufficialmente riabilitate dalla Corte di Cassazione francese solo nel 1949. Un gesto doveroso nei confronti di un autore che non solo ci ha regalato la sua opera, ma ci ha dischiuso anche quella di Edgar Allan Poe e con essa tutti i suoi splendidi brividi. Hai mai sentito parlare della cosiddetta anatomia del terrore? Terrore? Cosa vuoi saperne tu, Alfredo? Ma io posso spiegartelo benissimo. Che cos'è il terrore? Vieni. Silenzio! Ascoltate. Il terrore è nello svegliarsi al buio e sentire la pendola scandire il tempo? Ascoltare i sordi battiti del proprio cuore? O nell'udire i passi di qualcuno che solo un attimo prima era nella tua stanza? Ma non parliamo troppo di queste cose. La conoscenza del terrore è riservata solo a pochi privilegiati.